Il cacciatore di libri di Alessandra Tedesco. Se dovessi dare una definizione a questo romanzo, almeno per quanto riguarda l'impostazione iniziale, lo definirei un romanzo freudiano, ma adesso vi spiego il perché. Il libro si intitola La tristezza e il sonno leggero, l'ha scritto Lorenzo Marone, pubblicato da Longanesi. Lorenzo Marone è la sua seconda opera, il suo secondo romanzo. L'avevamo intervistato l'anno scorso al Cacciatore di Libri con La tentazione di essere felici, un romanzo che ha avuto molto successo con questo protagonista, quest'uomo anziano che poi rivedeva parte della sua vita, il rapporto con i figli. In La tristezza e il sonno leggero invece il protagonista è decisamente più giovane, circa un quarantenne, si chiama Harry ed è al centro di una famiglia diciamo molto allargata. Io l'ho definito appunto un romanzo almeno inizialmente freudiano perché tutta la prima parte punta su quanto la vita del protagonista di Harry sia stata influenzata dal padre e dalla madre, dal comportamento del padre e dal comportamento della madre. In questo senso appunto lo definivo freudiano. E c'è l'incipit che è veramente molto molto bello. Me ne leggo giusto un pezzettino qui e lì. Si dice che il carattere di una persona si formi nei primissimi anni di vita. Sono i primi anni che influenzano tutto il resto. Una bella fregatura, perché basta che per un motivo o per l'altro quel periodo non vada per il verso giusto che sei rovinato per sempre. Poi ci scrivi altre cose e poi dici. Per me invece fu, diciamo, un episodio particolare per il protagonista. Ero nel corridoio di casa, da un lato mia madre, dal lato opposto mio padre. La crisi dei miei durava da sempre, ma quella sera esplose con tutta la sua forza e lo tsunami fu devastante. A papà toccò il divano, a me invece la scelta. Che non era da chi dei due farmi portare a letto, ma a chi dei due voltare le spalle. Quindi insomma la storia di Harry la fa iniziare da un trauma molto profondo. Lui ha 4 anni, i genitori litigano, insomma, e lui deve scegliere a chi girare le spalle. Quanto peserà questa sua immagine, questa sua scelta di bambino, questo suo essere testimone del disfacimento del matrimonio dei genitori sulla sua vita? Pesa parecchio, come per tutti, soprattutto tutti i bambini che hanno presto a che fare con il dolore, no? Che è derivante in questo caso dalla appunto separazione. L'incipit dice proprio questo, si dice, no? che è così, quello che poi saremo in gran parte è deciso nei primi 6-7 anni di vita, quindi se ci va bene è una gran fortuna, altrimenti poi è un continuo dover recuperare, secondo me, no? Tutta una serie di lacune, di vuoti che si vengono a creare nello stomaco, che sono derivanti dal trovarsi già in una fase, no? Difficile, perché l'infanzia secondo me poi è un... Però lì hai proprio, come dire, una sorta di input su come poi rapportarti emotivamente alla vita, almeno così gli psicologi dicono, che i primi anni impari appunto a reagire, sì, alle emozioni della vita. Sì, io credo che impari, ma anche in base a ciò che ti dà la famiglia. La famiglia dovrebbe darti, tramite l'amore, tramite l'attenzione, la cura, il rispetto, anche una carezza, no? Il consiglio, ascoltare la tua opinione, ti forma, ti plasma, dico io, ti crea quell'energia che è nella pancia, quella io in genere la chiamo palla, che è nella pancia e che ti dà la possibilità di affermarti, no? Nel corso della vita. Invece per Harry e per tutti i figli di genitori insolventi molto spesso quell'energia manca e quindi bisogna arrancare, bisogna poi costruirsi un io, a proposito di Freud, ecco. Che non c'è stato appunto, non ha avuto quelle sicurezze, non ha avuto degli esempi chiari, perché chiaramente dicevamo Harry fa parte di una famiglia allargata, c'è la mamma Renata che è una donna piuttosto forte, volitiva, tende a prendere le decisioni un po' per tutti ed Harry lascia decidere sua madre in molte circostanze, c'è il padre naturale, Raffaele, che però diciamo con il quale recupera un rapporto poi più in là negli anni, e c'è il patrigno Mario che sembra invece la figura quasi più affettuosa in questo rapporto familiare, e ha una marea di fratelli naturalmente. Adesso non vi faccio tutto l'elenco perché li ho dovuti segnare veramente tipo albero, sì, genealogico. La sensazione che si ha è che Harry sia sempre un po' sospeso, si senta sempre un po' escluso da tutto e da tutti. C'è la scena in cui la madre gli ripropone per l'ennesima volta il succo di pesca mentre lui è allergico al succo della pesca, ma ci sono tante altre scene dove lui si sente anche messo da parte dai fratelli. Eh sì, è un po' quella definizione che viene fatta da Arianna, che è la, la figlia del patrigno, anche se il patrigno è un termine orrendo, però, insomma, è così. Di cui lui si innamora un pochino. Sì, in cui c'è una relazione, diciamo, da quando sono bambini. Si definisce, si autodefinisce, anche Harry entra in questa categoria di mezzi figli, no? Che sono quelli proprio sballottati un po' qua, un po' là, costretti a crescere un po' dal padre, un po' dalla madre, quindi senza avere vere radici, senza un luogo che sia sentito come casa, e quindi si sente un figlio di serie B rispetto ai fratelli. È un po' così, sì, come dicevo prima, no? Si cresce con questa sensazione di dover sempre conquistarsi qualcosa. Questo poi col passare del tempo si stratifica, questa sensazione, ed è sempre più difficile recuperarla. Addirittura alcune volte si arriva a sentirsi un po' estranei nella propria famiglia, da qui anche poi la necessità, no, di affermarsi, la necessità di combattere per emanciparci dal ruolo che la famiglia ci ha assegnato, ci ha attribuito, in qualche modo, da questo copione che siamo costretti a recitare. Infatti in questo romanzo si vede molto, come dire, la lotta di Harry nei confronti del suo passato. È come se lui volesse liberarsi di parte del suo passato. Si dice che tutti noi siamo figli del passato che abbiamo avuto, e invece lui, in questo percorso molto complesso che fa nelle quasi 400 pagine, no, 350 pagine del tuo libro, fa come per dare un taglio netto rispetto a quello che era l'Harry del passato. Sì, perché poi alla fine lui non è un uomo che alla fine reagisce con tutte le sue debolezze che si porta appresso, però è un uomo che comunque si laurea, comincia a lavorare presto, si va a convivere con la moglie. Cioè è un uomo che in qualche modo cerca di, appunto, di emanciparsi, e capisce che deve emanciparsi, soprattutto alla figura di questa madre, no, che abbiamo detto che è una donna autoritaria, che caspita, definita dal terapeuta di Harry una madre fallica, no? Donna che cerca in tutti, o comunque invade la vita dei figli, decide per loro. Diciamo che c'è anche una sua vita sentimentale, appunto la compagna Matilda, sì. Matilde che improvvisamente gli confessa di averlo tradito, poi succedono altre cose. Lui però fa proprio un percorso di crescita nelle pagine del tuo romanzo, quasi anche di acquisizione della propria identità, di coraggio, di visione di sé. Perché c'è una frase, per esempio, che mi sono appuntata. Lui ricorda di quando uno dei suoi fratelli aveva iniziato a parlare a un anno, tutti si aspettavano che dicesse mamma o papà, insomma, le prime parole, e lui disse la parola tucano, che insomma per un bambino è insolito. E allora Harry commenta: il suo gesto mi lasciò, manco a dirlo, senza parole. A poco più di un anno Giovanni aveva avuto il coraggio di aprire bocca per dire una cosa diversa da quella che chi gli era di fronte voleva sentirsi dire. Io per fare lo stesso ho impiegato qualche decennio in più. Lui è un po' vittima. Sì, e questo fa parte un po' del discorso di prima, no? Quando cresci nelle attenzioni, con l'amore della famiglia, cresci sicuro di te, con una diversa autostima, non devi appunto stare lì a conquistare nulla, e quindi hai anche la forza di dire davanti a un tuo genitore una cosa diversa da quello che si aspetterebbero. Sì, Harry invece è un po' Harry e tanti ragazzi, bambini come lui, deve un po' conquistarsi quest'amore. Certe volte è costretto anche a dire bugie, no? E questo fa parte di quel ruolo. Certe volte devi inizialmente anche recitare quel ruolo pur di attirare un po' di amore a te. Io trovo che Lorenzo Marone abbia una capacità straordinaria come scrittore, cioè quella di mettere veramente a fuoco l'anima dei personaggi nelle loro sfaccettature, nelle loro sfumature. L'avevi fatto con un uomo di 75 anni, 76. Adesso è 76, Cesare esattamente, nel libro precedente. Qui l'hai fatto con questo personaggio, con Harry di 40 anni, ma con tutte le persone che gli girano intorno. Ora, chiaramente ogni scrittore ha il suo segreto su come, diciamo, descrivere l'animo dei suoi personaggi, ma tu da che cosa parti? Da che cosa sei colpito? Come hai costruito il personaggio di Harry? C'è qualcuno che ti ha dato un'ispirazione, o hai, come dire, immaginato un po' a tavolino che un bambino che aveva avuto tutta questa storia poteva avere queste conseguenze nella sua mente? parto da un'idea. Anche nella tentazione di essere felice c'è questa necessità, no, di essere se stessi, diciamo così, di essere in contatto con il proprio io, con le proprie passioni, no? È vero, in quel caso era alla fine della vita e qui al centro della vita. Sì, qua volevo dire, il concetto fondamentale era quello, volevo parlare della necessità di essere davvero noi stessi. Dove ho preso il personaggio Harry è dentro di me, è un po' costruito dal mio trascorso, come sempre, da tutto quello che ho appreso nel corso della mia vita. Dal trascorso ovviamente intendo come trascorso familiare, certo, durante l'infanzia. No, tu precisi per esempio alla fine nei ringraziamenti, dice: ah, dimenticavo, sì, la mia famiglia non è né nella trama né nei personaggi, semmai nei dettagli. Qui al Cacciatore, sì, di Libri non chiediamo mai se i romanzi sono autobiografici, non ce ne frega niente, perché chiaramente, sì, ogni scrittore mette sempre una parte di sé in qualsiasi romanzo. C'è ovviamente qualche cosa nascosta qua e là, no? Però hai una capacità di osservare appunto le persone e soprattutto il modo di ragionare, perché se ti eri calato nei panni di uno di 77 anni, insomma, adesso questo ti è più vicino come età naturalmente, però secondo me hai una bella capacità, e questa è naturalmente un pregio per un giovane scrittore. A proposito del titolo, lo sapete, io sono appassionata e questo titolo mi piace un sacco, tanto non lo scelgono mai gli scrittori, quindi non è un complimento a Lorenzo Maroni, è tuo, in genere lo sceglie la casa editrice. La tristezza e il sonno leggero, c'è un pezzettino dove si capisce un, sì, pochino, perché Harry dice: se dico che ho il sonno leggero mi sento consigliere della camomilla, altro che camomilla, per poggiare la testa sul cuscino e iniziare a russare mi servirebbe un potente infuso di superficialità. Sì. Che cos'è allora questa tristezza che è il sonno leggero? Beh, un po' quella... La sensibilità, no, ti permette di vedere, di sentire. A proposito di tu dicevi che hai descritto un anziano e adesso un giovane. Credo di essere una persona sensibile, no? E quindi poi la sensibilità ti permette di vestire i panni, di sentire quello che sentono gli altri. Capisce che tu percepisci quello che sentono gli altri. Ed è una fortuna per certi versi, per altre, insomma, poi una grande sensibilità ti espone, quindi è uno scudo più fragile, una corazza più fragile. Io le chiamo gli uomini o le donne spugna, cioè che assorbono assorbiamo un po' tutto. Quindi è questa vena di possiamo definirla malinconia. A Napoli si dice apocondria, che sarebbe questa malinconia di fondo con la quale ormai siamo abituati a convivere, che è diventata quasi un'amica, no? Che cerchiamo di spegnere con l'ironia. Io poi l'ironia me ne servo tanto, sia cerco di farlo nella vita, sì, è vero, soprattutto anche nella scrittura. Infatti, perché anche nel libro, per quanto insomma sia tosto in alcuni punti, a volte si sorride, a volte si ride, si percepisce sempre questa ironia, che è tipica del tuo stile e tipica di voi napoletani. Spiegami un attimo, c'è una categoria scrittori napoletani? Non lo so, no, non, la mia scrittura senza Napoli sarebbe completamente diversa, cioè, perché poi Napoli è una città nel bene e nel male, però ti offre tanto. L'ironia fa parte proprio del mio modo di intendere, dicevo prima, la vita, ma soprattutto la scrittura, perché ti permette secondo me di affrontare poi anche tematiche importanti, come hai detto tu, però non rischiando di diventare banali o comunque pesanti, no? Quindi secondo me è un buon trucco, che poi diciamo la vita poi in realtà è una commedia, no? Quindi secondo me è la giusta via di mezzo, no? Cioè, ci si ride e si piange, quindi siccome io nei romanzi parlo sempre, cerco di parlare di vita reale, la vita è questa. Infatti tu la descrivi benissimo secondo me in questo romanzo, anche il rapporto veramente conflittuale con la madre, con il padre, l'evoluzione di Harry. Io ho segnato veramente, poi ve lo fotograferò, è il mio libro, la mia copia, perché hai visto, ho segnato un sacco di post-it e un sacco di frasi, perché alcune le trovo proprio delle perle di saggezza, un po', sai, universali, che possono servire a tutti, degli aforismi. Oggi forse li trasformeremo in status di Facebook. Secondo te ci saranno persone che useranno frasi del tuo libro, vero? È capitato, sì. Perché anche mi dà con proprio Cesare, di... con Cesare, tante frasi. Anche che infatti con il tuo tante primo romanzo. Tante frasi sono state, sì. Almeno una cosa che fa piacere, nel senso vuol dire che si crea poi un'empatia con il lettore. Allora inizierò a twittare le frasi che mi piacciono di più di questo romanzo. Che è difficile poi perché vanno contestualizzate, però insomma almeno cerchiamo di far capire di che cosa stiamo parlando. Grazie a Lorenzo Marone, che ci ha presentato, ci ha proposto il suo libro La tristezza e il sonno leggero, pubblicato da Longanesi, un libro che veramente vi consiglio vivamente di leggere, perché è un libro che vi fa capire tanto della personalità, appunto, dei personaggi. È un libro che apre il cuore e fa capire, secondo me, tante cose. Una breve pausa e poi parleremo ancora di libri. Il cacciatore di libri. Nella prima parte vi ho parlato di un romanzo, quindi fiction, pura fantasia, che sostanzialmente mette in evidenza come il rapporto, la separazione fra i genitori ha avuto un'influenza pesante nella vita di un bambino, poi di un ragazzo e di un adulto. E allora mi è venuto spontaneo legare quel romanzo di fiction a un libro invece che racconta una storia vera. Si intitola Soffia forte il vento nel cuore di mio figlio, scritto da Carolina Bocca, pubblicato da Mondadori. Diciamo subito che Carolina Bocca è uno pseudonimo, naturalmente per tutelare sia la sua vita sia la vita di suo figlio, che nel libro viene chiamato Sebastiano. Si racconta sostanzialmente la storia di questa famiglia, una famiglia allargata, perché la madre, sposata prima con Enrico, si separa, poi entrambi creano un'altra famiglia, e c'è questo figlio, Sebastiano, che, a differenza, diciamo, della sorella, è forse, come dire, molto esposto alla vita, e per queste ragioni, forse perché non ha abbastanza scudo di protezione, reagisce diversamente rispetto a come reagisce la sorella ai casi della vita. Inizia a drogarsi durante proprio le scuole medie, inizia a farsi degli spinelli, delle canne. E allora vi leggo, naturalmente non abbiamo potuto intervistare l'autrice proprio per la sua privacy, vi leggo alcuni brani di questo libro che, ripeto, è molto attinente a quello di cui parlavamo nella prima parte. Lei racconta: mi sono spinta a rovistare nella borsa del figlio, alla ricerca di un brutto voto non confessato, una nota o perfino una sospensione, ma non ho trovato nulla. Bisognava andare oltre, non restava che esplorare il vortice melmoso dei social. Ed è qui che lei scopre che Sebastiano fuma spinelli con i suoi amici del cuore, Simone e Davide, a 13 anni. E poi ancora, Seba me lo ha confessato successivamente, ha provato di tutto tranne l'eroina, ma ci è andato vicino. Tutto partendo da un'innocente canna. Si pensa ai tossicodipendenti come larve umane, eroinomani all'ultimo stadio, e invece l'evoluzione ha cambiato i connotati delle dipendenze. I videogiochi, il sesso, l'alcol e le droghe leggere sono questi i profili dei giovani drogati moderni. Naturalmente la scoperta del figlio che si droga è proprio l'esplosione di una bomba all'interno di questa famiglia allargata, delle due famiglie che i genitori poi nel frattempo hanno ricostituito e hanno fatto a loro volta altri figli. È veramente un terremoto emotivo per tutti quanti. Innanzitutto nasce un processo di analisi, di autoanalisi, soprattutto da parte della madre, che poi è quella che appunto ha scritto il libro. Che cosa ho sbagliato? Che cosa abbiamo sbagliato? Perché ci sta succedendo quello che sta accadendo? E lentamente, anche con l'aiuto naturalmente di psicologi, di persone che l'aiutano, si rende conto che il figlio ha vissuto un crescendo di frustrazioni. Le nuove unioni dei suoi genitori, la nascita dei fratellini, tutto ha contribuito ad accrescere la sua angoscia, il suo bisogno disperato di accoglienza da parte nostra. Di questo ci siamo resi responsabili. La sua risposta, una chiusura totale al dialogo. Seba gridava aiuto con tutta la forza, ma si rifiutava di riceverlo nel modo che noi gli offrivamo. E ancora l'analisi, l'autoanalisi dei genitori. Senza volerlo e senza prevedere le conseguenze, non siamo stati in grado e disposti ad ascoltare le sue grida interiori, presi, come eravamo noi adulti, a rimettere ordine nelle nostre vite, a lenire ferite fresche, a ricostruire. E lui è scivolato involontariamente nell'ombra. Diciamo dunque che il libro è strutturato in due parti, possiamo dire così. La prima parte in cui i genitori, soprattutto la madre, rimangono completamente scioccati, non riescono a capire la portata di quello che sta accadendo. Pensano sì, una canna, ma sarà una ragazzata. E invece poi si rendono conto che il problema è ben più profondo e decidono a quel punto di mandarlo in una comunità terapeutica per tossicodipendenti. Ed è qui che avviene tutto il lavoro di decostruzione dell'io per quanto riguarda Sebastiano e di ricostruzione dell'io in modo propositivo e positivo. Naturalmente è un processo in cui viene coinvolta tutta la famiglia, quindi la madre, il padre, il nuovo marito della madre, la moglie del padre, i fratelli, i fratellastri, insomma tutti vengono coinvolti in questo processo di decostruzione della personalità di Sebastiano e poi di costruzione della stessa. Insomma, un libro, una testimonianza che secondo me è molto utile, molto, molto forte, molto utile a chi si trova ad avere un figlio adolescente, magari con problemi, non è detto che abbia problemi appunto così gravi di droga, ma sicuramente si trova in una fase della vita piuttosto complessa. Il libro si intitola Soffia forte il vento nel cuore di mio figlio, l'ha scritto Carolina Bocca, abbiamo già detto, è uno pseudonimo, pubblicato da Mondadori. E prima di chiudere vi ricordo che come ogni martedì 22 marzo, troverete online sul sito del Sole 24 Ore la nuova puntata di Autori, le strade della narrazione. Sostanzialmente un video, una puntata video, in cui uno scrittore legge un piccolo brano del suo romanzo, ma soprattutto poi lo racconta a modo suo, senza mediazione delle domande di un giornalista, per esempio. Nella puntata del 22 marzo ci sarà Giuseppe Lupo con L'albero di stanze, pubblicato da Marsilio. Ecco un breve estratto. I muri non ce la fanno a stare zitti. Parlano, parlano, si imbrogliano per troppa irruenza. Cercano di mettere ordine nella matassa dei discorsi che si è formata anno dopo anno, filo allacciato a filo, come la camicia di pittura, uno strato sopra l'altro. Mi arrendo. Fate voi. Le mie orecchie sono a vostra disposizione. E i muri cominciano un racconto che non conosco. Anche per oggi è tutto, grazie in regia a Paolo Corleone. Vi ricordo che come sempre trovate tutte le puntate del Cacciatore di Libri su radio24.it. Per essere sempre aggiornati potete seguirmi su Twitter. Una buona lettura a tutti da Alessandra Tedesco.